Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dottore, scusi, già che c'è, mi misura la pressione? Se non lo fa lui, chiediamoglielo noi. È una richiesta semplice che ci potrebbe evitare una serie di guai. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Voi siete pronti a dare i vostri numeri? Il nostro numero verde è già prontissimo. 800 24 00 24. Però è anche vero, no? Per conoscere i valori della pressione bisogna misurarla. E non si sa come, ma la cosa non ci piace, preferiamo rimandarla o fare proprio finta di niente. E questo per mancanza di tempo, per evitare la seccatura di dover dare retta al medico o di essere costretti a prendere la pastiglietta, di ricordarsi di farlo e di accettare l'idea di farlo per sempre. Dico bene? Assolutamente sì! Vorrei che mi rispondesse l'ospite di oggi, prendendo in prestito il titolo di una canzone del suo gruppo, perché la pressione, come titolo un suo altro successo, è una delle cose che contano. Non voglio andare oltre perché è tempo di dare il benvenuto a Gaetano Curreri degli Stadio. Ciao Gaetano! Ciao Nicoletta, buongiorno, buongiorno a tutti. Gaetano, li so tutti i titoli dei vostri successi. Sì, è andato anche a scovare cose che contano, che non è una canzone così importante. Ma io so, caro mio Gaetano, io so i titoli dei vostri successi e tu conosci i valori della tua pressione? Assolutamente sì, come dicevi tu. Io me la sono misurata come tutte le mattine, me la misuro con la mia macchinetta che mi sono comprato. Te li posso anche dire, se vuoi, diretta: 133 la massima, 70 la minima e 69 pulsazioni. Sai che anch'io ieri io prendo le mie pilloline. E tu prendi le tue pilloline? Due ogni mattina. Senti, sai che anch'io ho misurato la pressione, perché tanto che preparavo la puntata ho messo anche sul profilo Facebook, volevo andare ieri però di corsa, sono andata stamattina alla farmacia vicino a casa mia, 110 su 70, io ce l'ho sempre un po' bassina, però meglio bassa che alta. Io devo dire che per arrivare a questi valori ho lottato, ho combattuto con il mio amico Claudio, abbiamo combattuto una battaglia importante, perché io ho dei valori veramente fuori norma, come disse l'infermiere che mi soccorse quando ebbi quell'incidente ad Acireale. Disse: sembra una minchia, professore, sembra una pentola a pressione. Senti, tu citi un tuo amico Claudio, tu tra l'altro hai scritto la prefazione di un libro, Non più sotto pressione, un libro che sarà in libreria i primi di ottobre di Aliberti Editore, che porta la firma di due grandi medici, uno proprio un tuo amico fraterno, è già in linea con noi, è il dottor Claudio Borghi. Buongiorno. Buongiorno anche a Gaetano. Professore, ciao Claudio. Allora, ciao. Il dottor Borghi è professore di medicina interna all'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi, sempre di Bologna, ed è affiancato in questo libro a un altro grande medico che noi conosciamo molto bene, Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno anche a lei, dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Affiancato, direi che è un onore per me essere fianco di Claudio Borghi. Allora, un libro a quattro mani, Non più sotto pressione, dobbiamo aspettare, non avete i primi di ottobre per trovarlo in libreria, adesso ci siete anche voi. Dottor Borghi, i suoi valori della pressione quali sono? Ma i miei valori medi della pressione, diciamo, si aggirano intorno ai 130-85, dipende, perché la mia pressione varia a seconda degli impegni delle giornate e della pressione del lavoro che mi circonda, ma diciamo 130-85 è un buon compromesso. Sentiamo quella del dottor Gargiulo, che mi interessa in modo particolare, perché di pressione 140-80. Quindi anch'io quasi nella norma, anch'io ahimè però risento di situazioni di stress quotidiano, ogni tanto sale un pochino. Quindi anche voi dite che lo stress conta, tante volte lo diciamo anche noi quando troviamo i valori della pressione un po' più alti e facciamo finta di niente, dicono ma sono agitato, ma parleremo anche di quella che viene chiamata la pressione da camice bianco. Ma Gaetano, torno subito a te, perché sono andata ancora a riprendere alcuni titoli dei vostri successi. Vorrei partire proprio da queste per dare delle indicazioni e mettere al lavoro naturalmente i nostri esperti. Partiamo da Dammi 5 minuti. Tu quando li trovi per misurare la pressione? Ci hai detto al mattino? Sì, al mattino. Appena al mattino sveglio, fai colazione? Sì, che fai? Colazione, prendo le mie pillole e faccio passare una mezz'oretta tre quarti d'ora, un'ora, e poi mi misuro la pressione con questa macchinetta che mi sono comprato su consiglio di Claudio, e devo dire che è abbastanza attendibile, insomma, anche perché ormai l'ho testata, e poi anche quando mi viene misurata appunto da lui oppure vado a misurare in farmacia, devo dire che i valori combaciano abbastanza. Dottor Borghi, promosso? Fa bene? Assolutamente, assolutamente sì, questa è una pratica corretta. La pressione andrebbe misurata fondamentalmente il mattino, perché il mattino è il momento in cui la pressione è più elevata e questo è quello che ci permette di affrontare la nostra giornata, quindi direi che sicuramente il consiglio di Gaetano deve essere seguito. Ho studiato bene, vedi? Vede che ha studiato. E Gaetano, se scopri che i valori hanno un, cito un altro titolo, equilibrio instabile, che cosa fai? La rimisuri? Dai la colpa allo stress? Chiami subito Claudio Borghi? Chiamo subito Claudio, subito. Cioè, non ci metto neanche 5 minuti, come dicevi appunto prima, lo chiamo subito. Lui, devo dire che è sempre che è carino, disponibile, mi tranquillizza nel caso, insomma, ci siano dei valori che si stanno alzando. Ma devo dire che è un po' di tempo che la mia pressione, devo dire che è a posto, quindi vuol dire che la cura è stata azzeccata e ormai sono la terapia che controlla, perché è la terapia che controlla la mia pressione, se no io sarei un iperteso. Devo dire che funziona bene. Dottor Gargiulo, Gaetano ha un medico per amico? Esattamente. Ecco, e questo anch'io aiuta. Però, E questo aiuta. Ma che si fa se magari uno dei nostri ascoltatori, proprio accogliendo l'invito che abbiamo fatto su Facebook, è andato a misurarsi la pressione dopo tanto tempo che non la facevo, o magari per la prima volta, e vede che è altina? Che cosa deve fare? Ma sicuramente rivolgersi al suo medico di famiglia, perché intanto è opportuno rimisurarla in condizioni ottimali, quali sono quelle dello studio, e quindi farla misurare dal medico e con lui cercare di capire che cosa sta succedendo, perché in realtà può essere anche un valore momentaneo legato a situazioni particolari, quindi non necessitare subito di una terapia, ma magari un piccolo adeguamento dello stile di vita. Se siamo un po' in sovrappeso, se abbiamo una vita molto sedentaria, ecco, spostare, cambiare qualche abitudine a volte può migliorare di quei 10-15 mm di mercurio che fanno un po' la differenza fra una pressione normale e una pressione modicamente alta. Gaetano, visto che tu sei stato promosso e poi hai un medico per amico, e che medico? Dici il segreto. Hai detto delle pastigliette, ti ricordi sempre di prenderle, ma il dottor Gargiulo faceva riferimento anche allo stile di vita. Io devo dire che dopo l'episodio che mi è successo a Cireale, qualche cosa ho cambiato nella mia vita. Intanto il discorso proprio dello stress e dell'affaticamento cerco sempre di tenerlo sotto controllo, cioè cerco di vivere nei limiti di quello che posso fare, chiaramente facendo la vita che faccio e il lavoro che faccio, cercando sì di guardare bene quello che faccio e comunque di farlo con dei ritmi più umani. E poi anche la mia, io per esempio, così senza che me lo dicesse Claudio, perché Claudio da questo punto di vista non mi ha obbligato a togliermi il sale, però sicuramente mangio molto meno salato di quando non sapevo di avere la pressione alta. Io ero uno che quando mangiava l'insalata, per esempio, sì, era una roba da che gli altri mi dicevano: ma quanto sale ci hai messo? Adesso ho sostituito il sale con l'aceto balsamico, quindi il sale aggiunto non lo aggiungo mai, utilizzo il sale, quello che c'è già negli alimenti. Ecco, questa è una delle attenzioni che fai. E poi bevo molta acqua. E poi questo è anche il segreto di Gaetano Curreri. Gaetano, un abbraccio, e allora continua così. E buona sorte. Saluti grandi medici che hai lì con te. Un grande abbraccio, mio amico Claudio. Grazie. Ciao Gaetano, ciao. Me li tengo tutti per me fino a mezzogiorno. E vado subito a Verona perché voglio dividerli con Antonio, che ha chiamato l'800240024. Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, siccome da qualche anno ho acquistato quegli apparecchi elettronici da polso e me la controllo sempre, però quando vado dal medico la trovo sempre differente. Voglio sentire se questi apparecchi elettronici sono attendibili, se sono sicuri, insomma, perché trovo queste differenze. Allora, lo chiediamo subito al dottor Gargiulo. Dottore, Ma dunque, l'apparecchio per la misurazione domiciliare è sicuramente attendibile. Io in genere lo sconsiglio quello da polso, perché in realtà il calibro dell'arteria non è sufficiente per darci un valore corretto della pressione, quindi si rischia di avere dei valori sbagliati, in eccesso o in difetto. Meglio il classico bracciale intorno, da mettere intorno al braccio, appunto, e con quello misurare una pressione magari ripetutamente, due o tre volte, per avere poi il valore più corretto. Claudio, dalla provincia di Foggia, buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì. Allora, premetto che io da un 15 anni a questa parte faccio come sport la bici a livello amatoriale. Sì. Sono un donatore di sangue e quindi come donatore frequentemente mi sottopongo elettrocardiogramma, misurazioni di pressione. Insomma, è un tipo controllato, come si dice. Esatto, come alimentazione mangio molta frutta, verdura. È solo che diciamo da quasi un anno a questa parte, misurando la pressione dal medico, mi ha rilevato la pressione alta. Dice, ma lei soffre di pressione alta? No, io direi che non ho mai sofferto. L'elettrocardiogramma risulta appunto che una bradicardia sinusale dovuta appunto al tipo di sport che faccio, però ripeto, in alcune occasioni mi è stata rilevata questa pressione alta, anche se io misuro a casa la pressione e mi è nella norma, tranne le pulsazioni che si aggirano intorno ai 42-45. La domanda è questa: mi devo preoccupare soprattutto per le pulsazioni abbastanza basse o... Allora, dottor Borghi, Claudio, mi sembra che faccia tutto per bene, quasi come Gaetano. Mangia bene, fa moto, attività sportiva, voi medici dite che è importante anche per tenere controllata la pressione. Si misura la pressione, va dal medico e ha degli altri valori e ci parla delle pulsazioni. E sono, questo delle pulsazioni è un messaggio, una richiesta che torna anche nei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Possiamo dare, partendo dal caso del nostro ascoltatore, delle indicazioni generali che servano un po' a tutti i nostri ascoltatori? Non c'è dubbio, la storia di Claudio è una storia tipica, per la verità lui effettivamente sta facendo tutto molto bene e fa tutto quello che noi suggeriamo di fare per ottenere un buon grado di protezione dal punto di vista cardiovascolare. È verosimile però che alla base ci sia una sua predisposizione genetica e che questa in qualche modo abbia fatto aumentare i valori di pressione arteriosa. Quindi è verosimile che la pressione non sia perfettamente controllata, nonostante il fatto che lui conduce una vita molto corretta dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista dell'esercizio fisico. Non credo ci siano grossi problemi, si tratta prima di tutto di dirimere il problema se lui ha realmente la pressione alta e questo può essere fatto con una serie di misurazioni o eventualmente ricorrendo a un monitoraggio della pressione delle 24 ore che ci dice in qualche modo quali siano le variazioni della sua pressione durante la sua vita normale. Per quello che riguarda il problema della frequenza cardiaca, la sua frequenza cardiaca è tendenzialmente bassa, ma ancora nei limiti della norma, soprattutto considerando l'attività sportiva. In generale il problema della frequenza cardiaca nel campo dell'ipertensione diventa rilevante quando la frequenza è troppo alta, perché un aumento della frequenza cardiaca fa aumentare la pressione arteriosa e quindi diventa un elemento che deve essere dominato per riportare i valori di pressione a un livello normale. Ma da questo punto di vista certamente Claudio non rischia assolutamente nulla. Oh, bene. Dottor Gargiulo, noi oggi dedichiamo proprio tutta la puntata all'ipertensione, al controllo della nostra pressione. Noi sappiamo che la pressione alta è un fattore di rischio, ma cosa capita esattamente? Perché voi medici dite che non dà segni chiari, ma produce nel tempo un danno lento e progressivo. Ci spiega soprattutto dopo quanto tempo? Perché uno dei problemi seri è che, dato che non amiamo controllare la pressione, molti di noi hanno valori elevati e non sanno di averlo. Capita così per diverse patologie e questa, che non è una patologia, comunque risponde rientrano in questo problema. Che cosa si fa? Che cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori senza spaventarli, ma per invitarli a controllare questo che potrebbe diventare un fattore di rischio importante? Perfetto, infatti è proprio questo che dobbiamo fare. È inutile spaventarsi, ma è molto utile controllare la pressione ogni volta che se ne ha l'occasione, ogni volta che si capita dal proprio medico oppure anche in farmacia, in maniera da avere sotto controllo questo parametro che, come ha detto giustamente, non dà segno di sé, quindi è inutile aspettare dei sintomi che possono anche esserci ma che sono ormai il segnale di qualcosa che è molto avanzato, come i mal di testa subentranti, quel senso di disorientamento che qualche volta i pazienti lamentano. Quindi non aspettiamo sintomi, controlliamolo e con il controllo noi potremo sapere come va e come sta la nostra pressione. È un fattore di rischio che noi dobbiamo legare ad altri fattori di rischio. Oggi valutiamo nel paziente il rischio globale, quindi l'ipercolesterolemia, il sovrappeso, l'attività sedentaria, la genetica, come abbiamo detto prima, tutta una serie di fattori che insieme possono determinare in tempi, e qui è difficile dire in quanto tempo, tempi variabili a seconda del numero dei fattori di rischio, ma insomma che prima o poi determinano un danno sulle arterie che può provocare un problema estremamente importante, che è quello della formazione della placca aterosclerotica e successivamente dell'embolia e della trombosi. Questi elementi sono estremamente pericolosi perché impediscono al sangue di arrivare ad esempio al cervello o al cuore, determinando o un ictus o un infarto del miocardio. Non è che arriva da un momento all'altro, non è che arriva oggi per domani, è che in realtà con il passare del tempo, se noi trascuriamo questo parametro, aumentiamo il nostro rischio e quindi possiamo andare incontro a problemi estremamente importanti. Dottor Borghi, a lei la domanda da mille punti, la domanda difficile: perché la pressione sale? Contano di più i fattori ereditari, quindi non so, in famiglia siamo tutti ipertesi, lo era mia mamma, mio nonno, o quelli ambientali? E ancora, siamo tutti destinati a diventare ipertesi o si può scampare il pericolo? Perché con l'età sappiamo, o almeno sembra, che i valori della pressione aumentino e quindi ci sentiamo come una spada di Damocle che ci pende sulla testa e c'è una sorta di rassegnazione. Ma per la verità credo che l'argomento è sicuramente difficile, richiederebbe una trattazione enorme, probabilmente dovremmo impegnare tutta la giornata visto che sarebbe il frutto di anni di ricerca in questo ambito, ma cercando di condensare un pochino le informazioni, direi escludiamo dal nostro ragionamento tutte le forme di ipertensione che hanno una causa nota diagnosticabile, che oggi sono diventate circa il 12-15%, perché la nostra capacità diagnostica è diventata molto più efficace, per cui siamo in grado di arrivare alla soluzione in una percentuale più elevata di pazienti. Nel restante 80-85% dei casi si tratta di queste forme che vengono definite essenziali o idiopatiche, il che significa che noi non siamo in grado di attribuirle a una causa specifica. Tra le cause potenziali, quelle maggiormente imputate, certamente la genetica gioca un ruolo fondamentale. La quasi totalità dei pazienti ipertesi ha una familiarità per ipertensione arteriosa e la semplice lettura degli alberi genealogici ci dice che esiste una trasmissione all'interno delle famiglie con quello che noi chiamiamo carattere dominante, che in qualche modo si ricollega anche alla parte finale della sua domanda, se il nostro destino verso l'ipertensione è un destino ineluttabile. Su questo si inseriscono ovviamente gli aspetti ambientali, quindi se io e lei abbiamo la stessa predisposizione genetica, ma io vivo una vita ascetica, separata dal mondo e non mi preoccupo di quello che mi circonda, lei invece vive la vita attiva che sta vivendo oggi, è più probabile che gli stimoli che lei riceve possano agire sul suo substrato genetico in senso di far aumentare maggiormente i valori di pressione arteriosa. Quindi la combinazione di questi due elementi, la risultante di questi due elementi è il fattore che condiziona la nostra probabilità di sviluppare ipertensione in un certo periodo di tempo. Se però esiste una predisposizione genetica, è verosimile che un certo grado di stimolazione, è verosimile che l'intervento di alcuni aspetti di natura dietetico e alimentare possano premere sulla nostra base genetica e quindi favorire lo sviluppo di ipertensione nell'arco della nostra vita. E quindi se esiste una predisposizione, la nostra tendenza a diventare ipertesi è sicuramente piuttosto elevata. Esiste un lavoro di qualche anno fa dello studio, relativo allo studio di Framingham, che è uno dei più grandi studi epidemiologici, che dimostrava come fondamentalmente oltre l'età di 65 anni, sì, per quelli che erano normotesi in quell'età, la probabilità di non essere ipertesi nei 20 anni successivi era molto vicina allo zero. Quindi esiste ovviamente anche un fenomeno legato all'età che permette alla pressione arteriosa di salire in maniera inadeguata. Allora, noi da adesso dobbiamo andare subito a sentire i mercati e poi il meteo. Dico quindi agli ascoltatori che magari alla loro pressione non ci pensano perché non hanno l'età, 30, 35, 40 anni, di pensare se i loro genitori sono ipertesi e di chiamarci 800 24 00 24, perché aggiustando lo stile di vita possiamo dare scacco, no, alla pressione. Insomma, le stiamo provando tutte per convincervi a controllare i valori della vostra pressione. Oggi il compito è abbastanza difficile, ma assolutamente importante. Per questo ho chiesto aiuto a due grandi medici, il professor Claudio Borghi e il dottor Carlo Gargiulo, autori di un libro che tra poco sarà in libreria ai primi di ottobre, Non più sotto pressione, di Aliberti Editore, dove troveremo tutte le indicazioni per fare amicizia un po' con questa pressione. Professor Borghi, i valori sono 140-90? Possiamo fissare a queste o dobbiamo fare dei distinguo? Variano un po' a seconda anche della persona, delle altre patologie? In generale i valori sono 140-90, nella media della popolazione questo deve essere considerato il limite superiore della normalità o, se vogliamo, il limite inferiore del patologico. Ci sono alcune condizioni di rischio associate nelle quali probabilmente avere valori di pressione arteriosa un pochino più ridotti può essere vantaggioso, segnatamente ad esempio la popolazione diabetica o la popolazione che ha avuto un pregresso evento cardiovascolare importante, ad esempio l'evento cerebrovascolare, l'ictus, l'evento coronarico, l'infarto miocardico. In generale si giovano di valori di pressione che siano leggermente più bassi, perché in questo modo si abbatte maggiormente il loro rischio futuro. Ma come, diciamo, interesse generale, come suggerimento generale di screening nella popolazione, quindi per i nostri ascoltatori che debbono essere sensibilizzati a farsi carico della misurazione dei propri valori di pressione, credo che, se ricordano queste due cifre magiche, 140 e 90, possa essere sufficiente per ottenere un buon risultato. Professore, lei diceva queste due cifre magiche, no? E sono queste due cifre, questi due numeri, quello della minima e quello della massima, che a volte ci fanno nascere una serie di dubbi, si prestano anche ad una serie di interpretazioni di sentito dire, di luoghi comuni. Io proverei insieme a voi a esaminare i più frequenti. Ad esempio, professore, ci sono persone che hanno la minima perfetta e la massima alta, o viceversa, insomma solo uno dei due valori un po' ballerino. Come va considerata? È comunque ipertensione oppure no? Sicuramente sì. La definizione che viene proposta dagli organi di controllo, che si chiamano in generale linee guida, che non sono nient'altro che un gruppo di esperti che definisce cos'è meglio fare in un certo ambito, stabilisce che la diagnosi di ipertensione si basi sulla presenza o di valori di massima superiori a 140 o di valori di minima superiori a 90 o di entrambi. Per cui di base è sufficiente che uno dei due valori sia al di fuori del normale per considerare il paziente iperteso. Di queste condizioni alle quali lei faceva riferimento, quella più tipica in generale è quella in cui i valori di pressione minima sono normali e quelli di pressione massima sono elevati, che è anche una dignità specifica come entità, viene definita ipertensione sistolica isolata, il che vuol dire con un aumento isolato soltanto della pressione massima. Ed è un fenomeno che aumenta progressivamente con l'età e, siccome noi invecchiamo come popolazione in generale, sta crescendo in maniera piuttosto evidente nella nostra popolazione. Questa è una condizione della quale bisogna farsi carico e che sfatta uno dei grandi luoghi comuni del passato, che forse lei ricorderà, quando si diceva che la pressione normale doveva essere 100 più l'età anni. Più l'età, cui, che adesso che l'età media è veramente allungata, si rischia di avere anche, no, 190, cioè. E ha fatto giustizia di questo, che era una valutazione totalmente empirica, che non ha mai avuto nessuna sostegno dal punto di vista scientifico. Abbiamo Giuseppe da Roma. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto agli ascoltatori. Io ho 46 anni, sono iperteso da illo tempore, prendo una mezza pastiglia da circa 20 anni e credo la pressione sia standard normalmente. Dal momento che io ho avuto mio padre e mio nonno, entrambi ipertesi con emiparesi, poi successivamente, mi chiederei, l'evoluzione sarà molto probabilmente negativa della mia patologia o non necessariamente? Insomma, volevo sapere qualcosa su questo. Allora, dottor Gargiulo, la sfera di cristallo non ce l'ha, ma Giuseppe le ha dato delle indicazioni preziose per un medico, e quindi con Giuseppe andiamo ai casi dei nostri ascoltatori che hanno casi di ipertesi in famiglia, un'ipertensione, come accennava Giuseppe, seria. Certo, certo. Beh, diciamo che Giuseppe, rispetto a suo padre e a suo nonno, è fortunato, perché in realtà la ricerca ha fatto passi avanti grossissimi e abbiamo oggi a disposizione dei farmaci che ci consentono il controllo della pressione, se seguiamo la terapia e gli stili di vita che il medico consiglia, un controllo della pressione praticamente perfetto. A questo punto il fattore di rischio principale per la famiglia di Giovanni è sicuramente ridotto e lui può sperare, anzi diciamo ha ottime speranze, di poter vivere più a lungo dei suoi antenati, poter vivere meglio dei suoi antenati e non rischiare ovviamente questo discorso della paresi, che è legata, quasi sicuramente era legata ad un ictus. Quindi sarei molto speranzoso e molto fiducioso. Una prerogativa però che deve mantenere è quella di curare la sua pressione, quindi seguire le indicazioni terapeutiche, e se posso tirargli un pochino le orecchie quando ha detto io credo che sia a posto. No, lui non è che deve crederlo, lui deve essere sicuro, perché in questo modo vuol dire che può vivere meglio e più a lungo. Mi piace, dottor Gargiulo, che ogni tanto tira le orecchie, però poi ci dà sempre delle buone notizie e ci tiene su. Io volevo andare a qualche richiesta. Ad esempio, ci sono delle false credenze sulla ipertensione. È vero che non si deve bere il caffè, professor Borghi? Assolutamente no. Questa è una cosa terribile, è una privazione alla quale molti dei nostri pazienti vengono sottoposti sulla base del nulla. Il caffè può essere bevuto tranquillamente, i bevitori cronici di caffè, e quindi per cronici intendo abituali, non hanno valori di pressione più alta. In alcuni casi la piccola dose di caffeina può far aumentare lievemente la frequenza cardiaca per qualche minuto, dopodiché la frequenza ritorna a posto e la pressione arteriosa non si modifica. Le dirò di più, ci sono una serie di studi interessanti che dimostrano come questo fenomeno valga anche nei pazienti che hanno avuto problemi cardiovascolari nel passato. Il caffè non crea problemi aggiuntivi, non determina una condizione di rischio particolare, e oggi abbiamo la certezza che alcune delle sostanze che sono contenute nel caffè, al di là della caffeina, possono avere un effetto protettivo nei confronti della parete dei nostri vasi, nella prevenzione del diabete, quindi in tutta una serie di condizioni che sono direttamente correlate al rischio cardiovascolare. Quindi io credo che una enormità più grossa di questa non averla mai sentita, ma nonostante tutto ancora i miei pazienti, quando li vedo in ambulatorio per la prima volta, mi dicono: da 10 anni o da quando so di essere iperteso non bevo più il caffè, perché mi hanno detto che era una cosa proibita. Non corrisponde affatto alla verità. Dottor Gargiulo, noi tra poco abbiamo le strade, ma intanto le lancio una palla. Sul fumo invece siete tutti d'accordo? Assolutamente, fa male da tutti i punti di vista, ma fa male anche alla pressione, perché chiaramente la nicotina, l'effetto sui vasi della nicotina aumenta la pressione. È vero che prendere una terapia antipertensiva e fumare si riduce ossia sensibilmente l'efficacia della terapia? Sicuramente sì, perché viene contrastato l'effetto terapeutico, che è quello magari di dilatare le arterie, da un effetto vasocostrittore che quindi riporta la pressione ai valori di prima della pasticca. Eccoci, siamo tornati insieme, 140-90, fate tesoro di questi numeri e delle indicazioni dei nostri esperti, cerchiamo di tenere sotto controllo la nostra pressione. Tante false credenze, luoghi comuni, abbiamo insieme al professor Borghi ci ha detto no, il caffè si può bere, questo ci piace, non si deve fumare invece, tanto per fare un piccolo riassunto. L'attività fisica fa bene, dottor Carlo Gargiulo, ma quale e quanta? Allora, l'attività fisica fa bene se è un'attività aerobica, quindi proporzionata al nostro livello di allenamento, che è estremamente importante fare questa attività. Quindi io sconsiglierei intanto tutto quello che è agonismo. Qualunque attività comporti un impegno volto ad ottenere un risultato non è consigliabile, perché l'agonismo ci porta sempre ad esagerare e questo potrebbe aumentare la pressione invece di diminuirla. invece un'attività fisica costante, regolare, quotidiana, fatta in casa o in una palestra dove possiamo fare degli esercizi anche sotto controllo, può essere particolarmente utile, perché abbiamo visto che effettivamente riduce di circa 10 mm di mercurio la pressione negli ipertesi e quindi migliora anche l'efficacia di un'eventuale terapia. Invece, professor Borghi, parliamo di attività sessuale. Per un iperteso non adeguatamente controllato, può rappresentare un potenziale rischio oppure no? Ci sono delle raccomandazioni? Beh, sostanzialmente no, ci sono certamente delle raccomandazioni. Direi l'attività sessuale non rappresenta di per sé un rischio assoluto, perché molto spesso nel corso dell'attività sessuale c'è un certo grado di vasodilatazione, per cui i valori di pressione si mantengono costanti, anche se esistono alcune segnalazioni circa l'incremento dei valori di pressione. Quindi è chiaro che è sempre meglio prima preoccuparsi di avere una normalizzazione assoluta dei valori di pressione arteriale, poi intraprendere qualsiasi forma di attività che abbia un coinvolgimento fisico, come naturalmente l'attività sessuale. Quello che in generale noi tendiamo a sconsigliare è l'attività sessuale fatta con finalità, fra virgolette, agonistiche, in accordo con quanto diceva Carlo Gargiulo in precedenza, oppure le situazioni in cui l'attività sessuale si associa a un eccessivo stress, a un'eccessiva pressione ambientale, dal punto di vista fisico o dal punto di vista psicologico. In questo caso effettivamente potrebbero esserci problemi. Quindi probabilmente fatta in maniera corretta ed adeguata, certamente non rappresenta un problema. Ah, bene, bene, questa è un'altra buona notizia oltre a quella del caffè, professore. Certo, naturalmente, ma devono esserci buone notizie. Noi vogliamo che i pazienti vengano a noi come di evangelica memoria, quindi abbiamo l'assoluta necessità di dare rassicurazioni, non di terrorizzare i nostri pazienti. Dottor Gargiulo, invece io vengo da lei. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo, ma lo dicono anche i dati, assumono una terapia ma non riescono a controllare per bene i valori della pressione, quindi in qualche modo fanno una sorta di patto con il medico che dice vabbè, più di così non si può, ma si accontenti. È frequente questo atteggiamento? Perché non si riesce ad arrivare in tutti i casi anche con la terapia a quei 140-90? Ma intanto diciamo che alcune volte può capitare che i target che vengono dettati dagli studi, dai trial clinici importanti, non siano raggiungibili nella vita reale, perché ci sono degli altri fattori che entrano in ballo, in gioco, e il medico di famiglia deve ovviamente tener conto anche di questo. Poi dobbiamo valutare l'età del paziente. Pazienti che scoprono in età avanzata di avere la pressione elevata devono raggiungere il target con lentezza, con molta gradualità, e qualche volta dobbiamo fare anche qualche piccolo compromesso. Però la cosa importante è che questo compromesso non vada a toccare lo stile di vita, perché molti pazienti non raggiungono il target perché non pensano di modificare lo stile di vita, quindi prendo la compressa e miglioro la mia pressione. No, non basta, non è sufficiente. Bisogna adeguare lo stile di vita e poi intervenire con la terapia. Oggi, come dicevo, abbiamo tante diverse classi di farmaci a cui ci possiamo appigliare, e quindi casomai aumentare il numero di farmaci più che le dosi può essere particolarmente utile per arrivare ad un controllo che sia giusto ed adeguato per il paziente. Anche nel caso della pressione ricordiamoci di curare il paziente e non la malattia, perché quello è importantissimo. Professor Borghi, quando scopriamo di essere ipertesi e il medico, no, ci dà la terapia, insomma è difficile per noi accettare che queste pastiglie, o meglio dovrei dire pastigliette, perché la monoterapia ormai è stata superata, ci dovranno accompagnare per sempre. Ma molte persone questo non lo accettano, soprattutto quando vedono che i valori scendono. Allora, questa pastiglietta è per sempre? Sostanzialmente, questo è, che lei solleva, un discorso molto importante, perché in teoria la situazione è questa, dovrebbe essere per sempre, ma il fatto che sia o meno per sempre dipende essenzialmente dall'evoluzione delle nostre conoscenze. Noi oggi possiamo dire che è per sempre perché oggi noi non conosciamo la causa dell'ipertensione. Teoricamente nel giro di pochi mesi, di pochi anni potremmo scoprire quali sono i meccanismi alla base dell'ipertensione e a quel punto identificare una terapia che possa correggere il problema e che quindi possa cambiare il nostro orientamento. Io in generale, per scelta personale, cerco di non rendere mai ineluttabile questa situazione quando ne parlo col paziente e dico: per quello che noi oggi sappiamo, lei dovrà continuare a prendere questa sua terapia in maniera indefinita, ma è probabile che noi nel giro di un tempo ragionevole scopriamo quali siano le causa dell'ipertensione, e a quel punto probabilmente questo mio discorso cadrà e potremo anche orientarci in un'altra direzione. Questo secondo me spinge il paziente stesso ad assumere in maniera più efficace la sua terapia, e lascia ovviamente aperta una possibilità, una strada, che il problema dell'ipertensione si possa risolvere e con esso si possa allontanare lo spettro di utilizzare la terapia per tutta la vita. Ma attualmente, ripeto, sulla base delle conoscenze che noi abbiamo, la terapia dell'ipertensione è una condizione finalizzata a controllare i valori di pressione arteriosa, non a cancellare il meccanismo responsabile dell'ipertensione, e quindi come tale ovviamente deve essere presa in maniera indefinita. Fausto ci chiama da Piacenza. Fausto, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Io ho 68 anni tra una settimana. Auguri. Non fumo, bevo 2 caffè al giorno, faccio una vita normale, lavoro, sono ancora in attività. E mi misuro regolarmente la pressione, la pressione, e scopro che al mattino, la misuro in casa, scopro che al mattino, ad esempio, alle ore 10 ce l'ho 141, 92 e 65 battiti del cuore. Sì. Alle 14.30 121, 72 e 78 battiti del cuore. Alle ore 21, questa è una giornata tipo, il giorno 10 di questo mese, alle ore 21 135, 82 e 74 i battiti del cuore. Cioè, io non vado poco dal medico, anzi quasi mai, sì? E quindi ho colto l'occasione per sentire voi. E certo, io ne metto 2 a disposizione. Dottor Gargiulo, Fausto se lo misura, devo dire, con grande regolarità, mattino, pomeriggio e sera, non è un po' troppo? È forse un pochino troppo, perché in realtà misurarla più volte durante la giornata in una situazione che mi sembra abbastanza tranquilla, direi che forse è un po' troppo, rischia di entrare in una ipertensione da ansia, da preoccupazione, da apparecchio vero e proprio. Quindi anche lì bisogna stare un pochino attenti. Il controllo della pressione ripetuto va fatto in quelle situazioni in cui la terapia non è sufficiente a dare i valori che vogliamo, e allora bisogna cercare di capire quando è magari il momento della giornata migliore per assumere il farmaco, perché io personalmente qui magari mi piacerebbe sentire anche... Ma sa che abbiamo 30 secondi di cose, però potremmo parlarne in una prossima puntata. Però perfetto, misuratevela, misuratevela, ma non fatevene un'ossessione. Professor Borghi, dottor Gargiulo, grazie per essere stati con noi. È sempre un piacere, Nicoletta, grazie, arrivederci Claudio. Un piacere grandissimo, grazie a tutti voi e arrivederci Carlo. Allora ci sentiamo presto, e noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.